C'è una tentazione che non riesco ad eliminare. La tentazione della pigrizia. Cominciare a liberarsene a 25 anni è molto tardi. Si dovrebbe cominciare a 25 mesi. In me, la pigrizia significa anzitutto il panico di fronte al pensiero del tempo. Il lavoro in fabbrica, in questo senso, è un sollievo. Questa pigrizia in me è fonte di rimorso e di disperazione. Il tempo è il limite primario. Ebbene, bisogna accettare questo limite. Devo riuscire a mettermi alla prova. Bisogna che io viva almeno un lungo spazio di tempo in modo puntuale, per provare a me stessa che ne sono capace. Altrimenti vuol dire che non sono in grado di stare al mondo. E che devo morire. È martedì 22 settembre ed entro in fabbrica alle ore 7. L'Alstom è una fabbrica di costruzioni elettriche. L'impiego mi è stato procurato dal mio grande amico Boris Sovarin. Sono stata assunta come tranciatrice, operaia alle presse. Si lavora a cottimo. Le medie sono alte, come è normale in tempo di crisi. Niente nella mia vita precedente mi ha preparata a questo genere di sforzi. La tranciatura è una delle cose più dure che vi siano tra i lavori affidati alle donne. Io sono ancora lontana dal raggiungere la media. C'è una media a cui dovrei arrivare e a cui non arrivo. Faccio ancora più fatica perché, essendo qui, prima di tutto per osservare e comprendere, non riesco da me stessa ad ottenere il vuoto mentale. Vuoto mentale. Quell'assenza di pensiero indispensabili agli schiavi della macchina moderna. Ad essere sinceri, per me questa vita è molto dura. Tanto più che i mal di testa non hanno avuto la cortesia di lasciarmi per facilitare l'esperienza. Tuttavia, resisto. E non mi pento nemmeno per un attimo d'essermi lanciata in questa esperienza. Ho una capacità d'adattamento quasi illimitata che mi permette di dimenticare che sono una professoressa. Una professoressa di filosofia che girovaga tra la classe operaia. Ho una capacità d'adattamento quasi illimitata che mi fa vivere la mia vita attuale come se mi fosse imposta da una necessità ineluttabile e non per mia libera scelta. Ricordarsi sempre di Spinoza. Riguardo alle cose umane, non ridere, non piangere, non indignarsi, ma capire. A96630. Simone Weil, operaia alle presse. Quando ci si mette davanti alla macchina, bisogna uccidere la propria anima, i propri pensieri, i sentimenti, tutto. Per 8 ore al giorno. Irritati, tristi o disgustati che si sia, bisogna inghiottire. Respingere in fondo a se stessi l'irritazione. Tristezza e disgusto rallenterebbero la cadenza. Per la gioia, è lo stesso. Ecco il caposquadra. Mucche. Testa scultorea, tormentata. Ha qualcosa di monastico. È sempre teso. Dice spesso di fronte ad una difficoltà: ci penserò stanotte. L'ho visto allegro solo una volta. Chissà cosa gli era accaduto quel giorno. Aveva pure un fiore all'occhiello. Sembra un tipo odioso. Volgare con le operaie. Cronometra quasi a caso, tira sempre verso i minimi. Finora non ne ho mai parlato. Rivolgere la parola a un capo, anche se è una brava persona, vuol dire comunque farsi strapazzare. E quando capita, bisogna tacere. Per i propri impulsi di nervi e di malumore bisogna tenerseli. Non possono tradursi né in parole né in gesti, perché i gesti sono in ogni momento determinati dal lavoro. Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la carne si contrae davanti al bisturi. Non si può essere coscienti. Eccolo che si avvicina deciso. Mi dice che se non faccio 800 pezzi mi mettono alla porta, non mi tengono. Ci sono delle altre che ne fanno 1200. 1200. Moquet parla senza alzare la voce. E perché dovrebbe alzare la voce quando basta una sola parola per provocarmi tanta angoscia? Che cosa posso rispondere? Mi proverò. Dal momento in cui si timbra l'entrata, fino a quando si timbra l'uscita, si può ricevere qualunque ordine in qualunque momento. E bisogna sempre tacere e obbedire. L'ordine può essere penoso o pericoloso da eseguire, o anche ineseguibile. Due capi possono dare ordini contraddittori. Non fa nulla. Tacere e piegarsi. Più presto, ancora più presto. Vincere ogni istante questo disgusto, questa nausea che ti paralizzano. Più presto, ancora più presto. Bisogna raddoppiare il ritmo. Quanti ne ho fatti? Più presto! I rumori della fabbrica, alcuni dei quali sono pieni di significato. Il colpo del mazzolo del battilastra, il mallio, mi provocano simultaneamente una profonda gioia morale ed un dolore fisico. Che impressione curiosissima. Vorrei tanto non sforare il tempo. Mi metto al lavoro senza riserve mentali, anche se la stanchezza e la voglia di fare presto mi irritano un po'. Ho messo una striscia troppo vicina e così devo replicare il primo colpo di pedale. Ho sbagliato un pezzo, ma uno su 5.000 è poca cosa. Non deve succedere con tutte le strisce. Mi succede spesso. Alla fine, seccata, rimetto la striscia lontana. La faccio passare oltre l'incastro e invece di una rondella cade un cono. Non chiamo Jacob. Provo a risolvere la cosa da sola e così giro la striscia dall'altra parte, ma non avendo compreso l'errore commesso, oltrepasso ancora l'incastro. Ed ecco che cade ancora un cono e subito dopo il mandrino della macchina. La macchina si è rotta. Per mancanza di studi, tu sei per l'operaio un mistero. Non vedo in te equilibrio di forze, di fronte a te io manco di sicurezza. Per intuito posso capire che quando hai un guasto bisogna metterti questo o quello. E così spesso faccio una riparazione che ti permette sì di funzionare al momento, ma ti destina ad un'usura più rapida e ad un nuovo guasto. Oh, sono esasperata dall'ignoranza di quello che sto facendo. Mi dice Mimì, ci trattano come macchine. C'è dell'altra gente che è incaricata di pensare per noi. Guarda un po'. Esattamente le parole di Taylor, ma con più amarezza. Sta arrivando Jacob. Per Jacob, la macchina è un curioso animale. Per Jacob, la macchina è davvero un mistero. È davvero un mistero anche la causa che le impedisce di funzionare. Non vuole andare! Continua a dire non vuole andare, come se fosse la macchina a rifiutarsi. Quel che mi addolora di più è il tono secco e duro di quel caro ragazzo di Jacob. L'ordinazione era urgente, il montaggio deve essere rifatto completamente, non siamo nei tempi. È una disgrazia avere operaie che non solo non stanno nei tempi, ma rompono pure le macchine! Ma chi ce le ha mandate qui dentro? Mimì, che mi ha vista disperata, mi ha confortata. È così cara. Ha 26 anni e gli occhi verdi. È sposata da 8 anni con un giovane muratore, lo ha conosciuto alla fabbrica Hangar. Lui ha fatto 2 anni alla Citroën ed ora è senza lavoro. Nonostante Mimì dica che è un ottimo operaio. Mimì è in fabbrica da 6 anni. Ha avuto bisogno di 6 mesi per acquistare un ritmo abbastanza rapido per guadagnarsi la vita. Durante questi 6 mesi ha pianto spesso, pensando che non ci sarebbe arrivata mai. Ha lavorato ancora 1 anno e mezzo, presto e bene, ma in una condizione di nervosismo continuo e con la paura di sbagliare. Solo dopo 2 anni si è sentita abbastanza sicura di sé per non prendersela. Ieri durante la pausa ho saputo che l'operaia che era stata licenziata 2 settimane fa, quella che aveva la tubercolosi, aveva sbagliato diverse volte centinaia di pezzi, centinaia! Ed ho chiesto ma quanti esattamente. Mi raccontano che una volta, proprio prima di ammalarsi, ne aveva sbagliati 600. Ma l'era stato perdonato perché almeno era in salute. Questa volta mi dicono ne ha sbagliati 500, ma non era più in salute, così non l'hanno perdonata più. L'amica di Rosetta ha avuto un ascesso alla gola. È stata a casa 5 giorni ed è tornata. D'altronde, i ragazzi non chiedono mica se sei malata. Ha lavorato ancora 2 giorni, poi ha dovuto di nuovo lasciare il lavoro. È tornata quando l'ascesso si è aperto. È sempre allegra in fabbrica lei. Diventa nervosa, dice, solo quando i suoi figli si agitano mentre giocano. A un giorno Mochelli ha detto: lei ha i capelli lunghi quanto il corpo. Era irritata, irritata? Avrebbe voluto rispondere volgarmente, ma non si può rispondere. Mi dicono che c'è una colletta da fare per la signora Forestier e che c'è una colletta da fare per un'operaia incinta. Eugenie dichiara che non darà nulla per la signora Forestier. Nemmeno Josephine La Rossa darà nulla. Ma Josephine La Rossa non deve dare nulla quasi mai. Mi raccontano che la signora Forestier è passata in fabbrica a dire buongiorno a tutti, sicuramente per via della colletta. Per l'operaia incinta danno un franco e mezzo. Nenette e l'italiana, una volta grandi amiche della signora Forestier, non daranno nulla nemmeno loro, nulla. Pare che la signora Forestier abbia fatto del male non a loro ma a diverse altre. Io lascio 2 franchi. Mi riferiscono che era già successo che la stessa operaia rimanesse incinta 1 anno fa. La gatta sbotta: e allora tutti gli anni! È ora di finirla e basta! Può succedere a chiunque. Quando non si può, non si deve. E poi trovo che questo non sia un motivo per fare una colletta. Per te? Sì. E lascio sempre 2 franchi. Un'operaia di Trapani ha avuto un intero ciuffo di capelli strappato dalla sua macchina, malgrado la reticella. Le si vede un grande spazio vuoto sul capo. È successo questa mattina ad inizio turno, ma ha ripreso subito il lavoro, benché abbia un gran male e una paura anche più grande. Qualche settimana fa ero nello spogliatoio mentre Mimì e Josephine La Rossa conversavano sul problema delle case della periferia ed era presente pure Nenette. E quando Nenette è presente, sono quasi sempre scherzi e confidenze da far arrossire un reggimento di ussari. Nenette le ha interrotte per raccontare di una sua amica che abita lì da sola e dall'amico pittore e ci fa l'amore 3 volte al dì, mattino, mezzogiorno e sera. Nenè ci ha raccontato anche la differenza tra la tecnica del suddetto pittore e quella di un altro, dal quale la sua amica si fa aiutare finanziariamente. Come rideva Nenè nello spogliatoio e diceva: non si priva di nulla. Per quanto ho capito, il tempo che non trascorre a fare l'amore lo passa a cucinare e a mangiare. Ma con Nenè c'è dell'altro. Quando parla dei suoi ragazzi, un maschio di 13 anni e una bambina di 6, e dei loro studi, e di come a suo figlio piaccia leggere, io vi assicuro, ne parla con un profondo rispetto. Di suo figlio dice: l'idea di mandarlo in fabbrica non so che effetto mi fa. In questi ultimi giorni Nenette è particolarmente seria. Evidentemente si chiede come farà a pagare la retta per i figli. Uscita dal dentista martedì mattina, forse giovedì mattina, mentre salivo sull'autobus, ho avuto una bizzarra reazione. Mi sono chiesta: come posso salire su questo autobus, io che sono una schiava? Come posso farne uso con i miei 12 soldi come qualsiasi altra persona? Ed ho pensato: che favore straordinario se mi facessero scendere in malo modo, dicendo che certi mezzi di locomozione così comodi non sono fatti per me e che io devo andare a piedi. Credo che mi parrebbe una cosa naturalissima. Scenderei dall'autobus. La schiavitù mi ha fatto perdere completamente il senso di avere dei diritti. Mi paiono un dono i momenti nei quali non devo sopportare nulla dalla brutalità degli uomini. Quei momenti sono come sorrisi del cielo, doni del caso. Speriamo di conservare questa condizione di spirito così ragionevole. I miei compagni non hanno, credo, il senso di questa condizione. Non hanno pienamente capito che sono schiavi. Le parole giusto e ingiusto perdono senso in una condizione in cui tutto è ingiustizia. Sono le 12. Jacob ha ritrovato il suo sorriso e mi assegna questo lavoro. Me lo assegna come se mi stesse facendo un gran favore. Effettivamente è un'ordinazione importante. Sono 500 pezzi di un'ordinazione importante. Sono terribilmente irritata dalla paura di ricominciare. Più di una volta passo la striscia un po' al di sotto dell'incastro, al primo colpo di pedale. Ma non succede nulla. Ogni volta tremo. Scopro qualche trucco. Anzitutto posare la striscia diritta, poi farla scivolare lungo l'incastro con un moto continuo. Raggiungo dapprima i 200 pezzi, in un'ora e qualcosa, poi va lento, sotto l'effetto della stanchezza. Penosissimo. Schiena rotta, che mi fa pensare al lavoro di raccolta delle patate. Braccio destro sempre teso. Pedalare è un po' duro, però mi piace fare un lavoro più complesso. All'1:15 dico a Pommera, il magazziniere, che si trova a passare vicino alla mia macchina, che è un lavoro che richiede ragionamento e molto meno noioso. Risponde che è vero. Mi scortico le mani. Un brutto taglio. Mi dicono di stare attenta alle mie mani, che sono mani da principessa. Nel lavoro complesso non esiste il problema del ritmo, perché non conta il tempo impiegato a portare a termine un'ordinazione. Comunque, di fronte a Moquet, assumo senza sforzo un ritmo ininterrotto. Quando se ne va, rallento. Non perché sia il capo, ma perché qualcuno mi guarda e si aspetta qualcosa da me. Sono le 15. Ho cercato di andare veloce, ma mi sorprendevo continuamente a ricadere nella fantasticheria. All'ora di pranzo sono uscita e sono andata al Prisuinici, 2 franchi. Ieri sera dai miei genitori ho lasciato 2 franchi per la cena, come al Prisuinici. Li ho costretti ad accettarli. Ho scoperto mio padre che riponeva dei soldi nella mia giacca. Glieli ho restituiti. Si preoccupano. Ritornando, ho fatto 4 passi ripetendomi di continuo la lista delle operazioni. Filo di ferro. Foro grande, sbavatura, direzione, filo di ferro. Filo di ferro, foro grande, sbavatura, direzione, filo di ferro. Filo di ferro, foro, filo di ferro, sbavatura. Non tanto per preservarmi da una sbadataggine, quanto per impedirmi di pensare. Se non si pensa si va più veloci. E poi i bastioni, gli operai. E poi di nuovo qui, alla mia macchina. Ma adesso qui non riesco a smettere di fantasticare. L'ignoranza totale circa l'oggetto del proprio lavoro è enormemente demoralizzante. Non si ha il senso che dai nostri sforzi esca un prodotto. Non ci si sente affatto produttori. Non si ha neppure coscienza del rapporto tra lavoro e salario. L'attività pare imposta e retribuita quasi a caso. Si ha l'impressione di essere un po' come dei ragazzi ai quali la madre, per farli stare tranquilli, dà da infilare perline, promettendo per dopo caramelle. Lo sfinimento finisce col farmi dimenticare le vere ragioni della mia permanenza in fabbrica. Non pensare più in questo genere di vita è l'unico mezzo per non soffrire. Solo il sabato pomeriggio e la domenica mi tornano dei ricordi. Dei lembi di idee. E mi ricordo che sono anche un essere pensante. Caro Albertin, mi ha fatto bene ricevere un rigo da te. Ci sono cose, mi pare, che comprendiamo solo tu ed io. Tu vivi ancora. Ecco, non puoi sapere quanto ne sia felice. Certo che te lo meritavi di liberarti. La vita li rende cari, i progressi che fa compiere, quasi sempre a prezzo di dolori intollerabili. Senti, ho un'idea. Vedo noi due, durante le vacanze, con qualche soldo in tasca, in cammino per strade, sentieri, campi, sacco in spalla. Si potrebbe dormire qualche volta nei fienili. Qualche altra volta si potrebbe dare una mano alla mietitura in cambio del mangiare. Che ne dici? Quello che mi scrivi della fabbrica mi è andato dritto al cuore. È ciò che sentivo io sin da quando ero piccola. Sai, ho avvertito intensamente in fabbrica quello che prima avevo intuito come te dal di fuori. Immaginami davanti ad un gran forno che sputa fiamme e soffi brucianti che mi arroventano il viso. Sono le 16 e mi trovo in un angolo diversissimo della fabbrica. Un angolo in cui i capi non vanno mai. C'è un'atmosfera libera e fraterna, senza più nulla di servile o di meschino. Il fuoco esce da 5 o 6 fori situati nella parte inferiore del forno. Mi metto proprio davanti per infornare una trentina di grosse bobine di rame. Sono per il tram e per il metrò quelle bobine! Mi urla l'operaia accanto a me. E l'italiana ha una faccia coraggiosa e aperta. Mi sorride e mi spiega che devo fare bene attenzione che nessuna delle bobine cada in uno dei buchi, perché vi si fonderebbe. Per questo bisogna che mi metta proprio di fronte al fuoco, senza che i dolori dei soffi roventi sul viso e sulle braccia mi facciano fare un movimento sbagliato. Abbasso lo sportello del forno, aspetto qualche minuto, rialzo lo sportello e con delle tenaglie tolgo le bobine ormai rosse, tirandole verso di me con grande sveltezza e con grande attenzione. E poi si ricomincia. Abbasso lo sportello del forno, aspetto qualche minuto, rialzo lo sportello e con delle tenaglie tolgo le bobine ormai rosse, tirandole verso di me con grande sveltezza e con grande attenzione. E poi si ricomincia. Abbasso lo sportello del forno, aspetto qualche minuto, rialzo lo sportello e con delle tenaglie tolgo le bobine ormai rosse, tirandole verso di me con grande sveltezza e con grande attenzione. E poi si ricomincia. Di fronte a me un soldatore anziano, seduto, con gli occhiali blu e la faccia severa, lavora minuziosamente. Ogni volta che il dolore mi contrae il viso, mi rivolge un sorriso triste che mi fa un bene indicibile. Dall'altra parte ci sono dei grandi tavoli e sopra di essi fogli di calcoli difficili e disegni e ancora carta. Attorno a questi tavoli una squadra di battilastra calcola, legge, disegni complicatissimi, applica nozioni di geometria descrittiva, studia e lavora con cura e senza fretta, con passione. Finalmente un lavoro di squadra compiuto fraternamente. Più lontano un robusto giovanotto picchia con un maglio su certe sbarre di ferro facendo un frastuono da fondere il cranio. Il giovanotto se ne infischia del frastuono e canta allegramente. Mi sento molto meglio in fabbrica, dopo essere stato al reparto del forno. Ed anche adesso che non sono più là. Adesso che devo ricominciare alla mia macchina, nel mio reparto. Che cosa ho guadagnato da questa esperienza? Il senso di non avere nessun diritto, di nessun genere, nessun nulla. La consapevolezza di appartenere alla classe di quelli che non contano in nessuna situazione, agli occhi di nessuno, che non conteranno mai, qualsiasi cosa accada. La capacità di vivere in uno stato di umiliazione latente e perpetua, senza sentirmi umiliata ai miei propri occhi. Di gustare intensamente ogni istante di libertà o di amicizia, come se dovesse essere eterno. Un contatto diretto con la vita. Questa esperienza ha cambiato in me non tanto questa o quell'idea, ma tutta la mia prospettiva sulle cose, il senso stesso che ho della vita. Conoscerò ancora la gioia, ma ormai una certa leggerezza di cuore mi riuscirà, credo, per sempre impossibile. Alle 17:15 fermo la mia macchina, nello stato d'animo cupo e disperato che accompagna lo sfinimento completo. Eppure, mi basta per risollevare l'animo dalla stanchezza. Imbattermi in quel giovanotto cantilino del forno, che ha un sorriso così buono. Incontrare il magazziniere Pommera. Ascoltare nello spogliatoio un duello di scherzi più allegri del solito tra Nenette e Mimì. Campana. Timbrare. Vestirsi. Uscire dalla fabbrica. Ricordarsi di Spinoza. Riguardo alle cose umane, non ridere, non piangere, non indignarsi, ma capire. A96630, Simone Weil, operaia alle presse.